Giovedì 30 gennaio del 2014, 87.9 la modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Per contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56 00185 Roma, ma credo anche semplicemente Radio Onda Rossa come causale. Per quanto riguarda invece la modalità PayPal, basta andare sul sito internet della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni e lì tutti gli estremi per appunto l'opzione PayPal. Questa è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più, la scaletta di quest'oggi la trovate sul sito internet alla voce trasmissioni Visionari, oppure sulla pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Sulla scaletta trovate gli ospiti di questa puntata e l'uscita in sala di oggi giovedì 30 gennaio, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV, ovvero sia la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti invece in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni. In più il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche quelle del 2014 e del 2013. È con noi Andrea Romeo di I Wonder Pictures, di nuovo con noi, ben ritrovato Andrea. Ben trovati a voi, è sempre un piacere. Allora, l'ultima volta ci eravamo sentiti a dicembre per la distribuzione in sala del documentario sulle Pussy Riot, adesso invece per un paio di lavori, uno in particolare, Stop the Pounding Heart, che sarà in programmazione al Cine Club de Tour dal 4 al 13 febbraio, e poi magari anche un accenno a Sugar Man, del quale parleremo con Anastasia Plazzotta di Feltrinelli Real Cinema, che lo farà uscire in DVD, ma anche Sugar Man sarà in programmazione al Cine Club de Tour. Andrea, allora cominciamo con Stop the Pounding Heart, di cosa si tratta? Beh, è un film di cui mi sono innamorato allo scorso Festival di Cannes, nuova avventura per Roberto Minervini, un regista marchigiano che vive però a Houston in Texas e che racconta la difficoltà ad affrontare l'adolescenza di una ragazzina che vive in una famiglia ultra cristiana di 12 figli, con appunto la difficoltà di un rapporto con la fede e col ruolo anche femminile, così come gli è proposto dalla madre. Un film straordinario, per cui hanno avuto parole di elogio, hanno festeggiato l'arrivo di un nuovo autore, la scoperta di un nuovo autore, massimi critici cinematografici italiani. Un film che ha vinto il Festival di Torino, un premio, appunto il premio della giuria al Festival del Cinema di Torino e al Filmmaker Festival di Milano. Un piccolo prezioso film che Biography in Festival e A Wonder Picture hanno il piacere appunto di star distribuendo nelle sale italiane, e che spero poi avrà la stessa sorte che è toccata Searching for Sugarman, vincitore dell'Oscar, come tu ricordavi, l'anno scorso, e che dopo il passaggio in veramente tantissime sale italiane, anzi mentre ancora nelle sale italiane, ha avuto una bella distribuzione in televisione su Sky a HD, e poi adesso esce in libreria per gli amici di Feltrinelli Real Cinema, che hanno realizzato da questo fantastico film un libro più DVD, di cui siamo molto orgogliosi. Senti Andrea, una domanda, vado proprio sul personale. Stop the Pounding Heart, cos'è a te che ha fatto innamorare di questo documentario? La luce che Minervini ha lo rende, è stata paragonata al cinema di Malik. È incredibile quello che con una telecamera digitale e una grandissima discrezione questo giovane attore italiano riesce a raccontare, andando alla distanza giusta dai personaggi per raccontarceli rispettandoli. E la sensibilità e l'invenzione del cinema di Minervini ha colpito il mondo. Pensa che in alcuni festival degli oltre 50 in cui è stato presentato, il film è stato messo nella sezione documentari, in altre nella sezione fiction, proprio perché è un cinema sospeso, creativo. Lui prima gira e poi scrive su quello che ha girato, raccontando quello che vede, ma poi raccontando anche quello che lui intende di quello che vede. Un'operazione molto sofisticata e, devo dire, nel caso di Stop the Pounding Heart assolutamente riuscita. Quindi praticamente è un grosso lavoro di montaggio, se lui prima filma e poi scrive. Molto, molto, ma non solo. È un grosso lavoro di umanità, di attenzione e di cura, come ha scritto Goffredo Fofi qualche settimana fa sul Sole 24 Ore. È un cinema della cura. Cura per i personaggi e cura per chi è venuto al mondo ed determina il futuro. Cosa incanta invece della storia che racconta nello specifico? Ma guarda, siamo su un altro pianeta, la Houston rurale, il Texas rurale, in una realtà che per noi è assurda, dove l'uso delle armi è quotidiano, dove anche le donne all'ottavo mese vanno per divertimento a sparare nei campi, dove le croci infuocate del Ku Klux Klan illuminano la notte, e dove un grande tradizionalismo si incrocia con la dissolutezza cowboy in appunto scenari e avventure assolutamente implausibili, diciamo, di un altro mondo. Ed è questa poi l'America che Minervini racconta anche al pubblico europeo, che è abituato, come dire, a una porta d'ingresso o hollywoodiana o più tradizionalmente newyorkese per una modernità americana, e che invece ritrova nel Texas di Minervini un'altra America assolutamente sconosciuta in più. Magari anche in Nebraska, per parlare di film in sala, che mi è piaciuto veramente tanto, non so se hai avuto modo di vedere. Sì, Alexander Payne ha fatto anche lui un viaggio per raccontare un'America addirittura in bianco e nero e ai margini di quella che normalmente è inquadrata nel cinema, in un film di grandissimo successo, che forse è stato anche per l'America stessa un grande compiacimento. Sì, sì. Senti Andrea, chiaramente per saperne di più sul calendario di distribuzione di entrambi i documentari, cioè Stop the Pounding Heart e Searching for a Sugar Man, diamo dei riferimenti internet? Ma sicuramente i siti di questi film, più facilmente cercando su Facebook le pagine ufficiali di questi film o di Wonder Pictures, che prova in qualche modo a raccontare in tempo reale quelle che sono le opportunità di vedere i suoi film in giro per l'Italia. In arrivo, ma ci risentiremo tra certo. qualche settimana, un altro candidato all'Oscar, The Square, un film straordinario sulla rivoluzione in Egitto, ma ancora siamo molto contenti del successo di The Act of Killing, che sta girando anche a Roma, è stato per settimane al Cinema Nuovo Aquila, e anche lui ha avuto la candidatura al prossimo Oscar per il documentario. Bene Andrea, allora a presto, un abbraccio. Grazie, buone visioni. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Stop the Pounding Heart al Cineclub de Tours dal 4 al 13 febbraio. Bene, allora, dato che abbiamo appena parlato con Andrea Romeo di I Wonder Pictures, a questo punto in collegamento abbiamo Anastasia Plazzotta di Feltrinelli Real Cinema per parlare dell'altro documentario arrivato in Italia grazie a Biografilm Festival di Andrea Romeo, Searching for a Sugar Man, che è in uscita in DVD, è uscito ieri in DVD. Anastasia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, saluti a tutti. Allora, qualcosa. Mi saluto da una Milano sotto la neve, innanzitutto. Milano sotto la neve. Allora, un'uscita del film accompagnato da un libro, ci diceva Andrea. Esatto, esatto. Allora, sì, il film è uscito ieri, un DVD accompagnato da un volume. Curato da Marco Denti. Del film sapete già, immagino, avendo parlato con Andrea, è veramente veramente guarda, ne avevamo parlato a suo tempo con il nuovo Cinema Aquila, che l'aveva programmato per un periodo, e con Andrea un breve accenno, perché con lui abbiamo parlato soprattutto dell'altro film, dell'altro documentario Stop the Pounding Heart, e quindi Searching for a Sugar Man ce lo puoi illustrare tranquillamente da capo. Ecco, no, io sono molto felice di vederlo in DVD, sono in collaborazione con I Wonder, perché credo davvero che sia il caso di un film che l'Oscar proprio lo merita, ha tutti gli ingredienti per essere un capolavoro vero, perché c'è una storia incredibile che uno dei più grandi sceneggiatori non avrebbero potuto inventare, un personaggio davvero mitico, nel senso che questo Rodriguez, per chi ha visto il film e per chi lo vedrà se ne darà conto, è proprio una figura difficile da raccontare, proprio un uomo tutto d'un pezzo, ma anche visionario, un visionario che di per sé era molto affascinante, e poi c'è questa musica dimenticata per tanti anni in modo veramente incomprensibile, che ha dei testi molto duri, politici, forti, ma è molto avvolgente, molto di quelle musiche che ti entrano dentro e continui e vuoi canticchiarla tutto il giorno, è molto orecchiabile, insomma c'ha tutto per essere veramente un grande film, girato molto bene, un impegno di anni, il regista ci ha lavorato per anni e anni, e quindi sono contentissima, no, di distribuirlo nella nostra collana. Nel libro abbiamo cercato di tracciare, diciamo, il panorama di quegli anni, fine 60 e inizio 70, panorama musicale di quegli anni, quindi raccontare un po' la storia di questi cantautori che venivano tacciati come nuovi Dylan in qualche modo, perché facevano della musica d'autore, folk, e tra questi naturalmente spicca la figura di Rodriguez. E invece nella parte finale del volume ci sono degli accenni alla storia produttiva del film, una lunga e bella intervista al regista che proprio ci ha messo passione e cuore. E tutto per 80 pagine, insomma è stato un bel lavoro, complimenti al nostro Marco Denti che ne è occupato. Senti Anastasia, dicevi della difficoltà a narrare la storia, però ecco, per chi ci ascolta, qualche accenno di questa vicenda diamolo per sapersi orientare. Sì, allora, sì, è una storia veramente incredibile. Rodriguez è un cantautore che decide fino a 60, di 70, di provare a produrre, prova chi produce un album prima e un secondo album dopo il 71. Incidono questi pezzi, e di questi album sono apparentemente un fiasco totale, nel senso che non se ne vende una copia. Siamo a Detroit. Passano molti anni, quindi siamo nel 96 se non erro, quando Rodriguez improvvisamente, nel frattempo si era molto modestamente, aveva deciso di rinunciare alla carriera musicale, aveva deciso di occuparsi completamente d'altro, faceva l'operaio, il carpentiere, insomma la si guadagnava normalmente il pane quotidiano, per lui la sua famiglia, facendo un lavoro con molta passione peraltro, comunque. E a un certo punto la sua vita viene in qualche modo sconvolta da una telefonata che proviene da lontano, dal Sudafrica, un giornalista autore lo rende consapevole gli passa un'informazione importante e particolare, e gli dice: Rodriguez non sa che in Sudafrica è più famoso di Elvis Presley? Ne è consapevole? Rodriguez mi chiama a dire: ma lei mi sta prendendo in giro? No, insomma, piano piano viene svelata questa storia pazzesca, cioè un LP era stato a suo tempo, quindi negli anni 70, portato in Sudafrica, non si sa bene come, probabilmente la fidanzata è andata a trovare il suo boyfriend là e l'ha lasciato lì, insomma una serie di circostanze, si è diffuso e assieme ai Beatles, assieme a Rolling Stone, Rodriguez era il top 3 dei cantautori più ascoltati in assoluto, che quindi significa milioni di dischi o venduti o piratati. Questa cosa è un'incognita che non viene mai fuori, perché Rodriguez non ha mai visto un centesimo, non ha mai avuto nulla di diritto d'autore, perché era assolutamente inconsapevole di tutto ciò che sta accadendo dall'altra parte dell'oceano. E non solo, è molto popolare, ma le sue canzoni sono molto popolari, ma anche hanno unito nella lotta contro l'apartheid, perché allora si era in piena apartheid in Sudafrica, quindi c'era una censura, era molto chiuso il paese, dei giovani che l'hanno usato in qualche modo come bandiera per rivoltarsi contro il potere, contro l'establishment, ispiratissimi dai suoi testi. Quindi improvvisamente mi si è trovato, è stato invitato in Sudafrica, è accolto con una limousine, con la famiglia, nell'incredulità di tutti. E questa è la storia. Da allora ovviamente mi si è ridato alla musica, ma continua, la sua vita non è minimamente cambiata, è sempre modesta, vive sempre nella sua casa, dove è sempre vissuto da 40 anni, e continua, non si è mai esaltato, una persona che ha mantenuto fede al suo valore, alla sua visione, nonostante abbia scoperto questa incredibile verità del suo conto. Senti Anastasia, nel corso degli anni mi sono ritrovato spesso tra le mani dei lavori della Feltrinelli Real Cinema. A questo punto una curiosità, intanto sì, quali sono i criteri di scelta e poi con quali cadenze escono in distribuzione? Allora, guarda, parto dalla seconda domanda. Noi ne pubblichiamo attorno ai 20-22 all'anno, quindi abbastanza, una frequenza importante, soprattutto in questi tempi di DVD, come sappiamo, insomma un po' soffre. Continuiamo a crederci, e almeno speriamo di poterlo fare ancora per i prossimi anni. Adesso diciamo, in più abbiamo, oltre diciamo, il DVD, cerchiamo anche di organizzare delle proiezioni spesso e volentieri, anche perché non solo per promuovere l'uscita del DVD, ma anche perché crediamo che tra i film, un esempio è Sugar Man, abbiano le potenzialità di anche andare in sala, di trovare un pubblico anche nelle sale. Quindi spesso facciamo delle operazioni che coinvolgono anche la sala con i nostri film, questo è da dire. Rispetto alla selezione invece il criterio sicuramente il film deve essere cinematografico, deve essere un film documentario cinematografico, anche perché credo sia importante far capire un po', insomma, introdurre un po' la cultura del documentario che c'è già in Francia e all'estero, anche nel nostro paese. Cioè un documentario che non è quello solito a cui siamo abituati, che ci propongono le TV, ad esempio, un documentario che sistematicamente all'estero va in sala, della durata di 70-90 minuti, è costruito come un vero e proprio racconto, con delle tecniche narrative ben particolari. Quindi diciamo questo aspetto, questa è la narratività e diciamo il coinvolgimento possibilmente emotivo, è un criterio importante. Poi c'è da dire che devo tener conto anche dell'attenzione del pubblico, quindi oltre ai nostri gusti personali, no? C'è un'attenzione, vedo, nel pubblico da parte di temi che sono legati alla musica, all'arte, e quindi in qualche modo musica e arte hanno nella selezione hanno un loro peso. Sì. Senti Anastasia, allora in chiusura diamo anche dei riferimenti per chi volesse saperne di più sulle vostre uscite? Beh, sicuramente, allora, adesso stiamo finalmente aprendoci una pagina Facebook dedicata proprio a Feltrinelli Real Cinema, un po' in ritardo, e quindi lì ci saranno tutti gli appuntamenti più legati alle sale. Invece attualmente, rispetto alle uscite DVD, sicuramente il nostro sito www.feltrinellieditore.it, nella sezione libri, collane e un cinema, lì ci sono tutto c'è tutto l'elenco delle uscite recenti e anche del catalogo, ecco. Va bene, allora ti ringrazio, magari a risentirci per le prossime uscite. Grazie mille, grazie a voi, saluto io a tutti gli spettatori. Un abbraccio, ciao Anastasia. Arrivederci, ciao, grazie. Anastasia Plazzotta di Feltrinelli Real Cinema sul documentario Searching for a Sugar Man, in uscita, uscito ieri in DVD accompagnato da un libro. Ilari Artemisia Rossi, ben ritrovata. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Allora, noi era un po' che non ci sentivamo su queste frequenze, ci eravamo incontrati a teatro e tra l'altro voi con la compagnia Controcorrente avevate portato qui uno spettacolo e da cui prendo un po' le mosse tutto, vero Artemisia? Esattamente. Ilari. Sì, nasce tutto dallo spettacolo teatrale Revolution Belli e Ribelli, che è andato in scena l'inverno scorso a teatro qui a Roma e ha avuto un discreto successo, insomma, di pubblico, di apprezzamenti, e da lì abbiamo voluto intraprendere questa nuova avventura, cioè l'idea di girare una serie web per poter rendere visibile questo progetto un po' a tutti, quindi non soltanto al pubblico che ci segue qui a Roma, e da qui è nata l'idea di Eskimo. Facciamo però un passo indietro. Sì. Come è partito il progetto teatrale dello spettacolo Revolution? Allora, il progetto teatrale è partito da una ricerca, diciamo, che abbiamo fatto sul movimento del 77. Sì. Quindi interviste a protagonisti dell'epoca, anche insomma letture di libri, fotografie, insomma racconti, eccetera. A seguito di questa ricerca, Emiliano Lucisano, che è lo sceneggiatore e regista della compagnia Controcorrente, ha scritto questo testo, quindi Revolution Belli e Ribelli, e da lì è nato lo spettacolo teatrale. Poi c'è stato appunto il progetto di crowdfunding per finanziare, esatto, questo progetto di serie TV, serie, esatto, web, scusami. Esattamente, cioè una serie web prodotta dal basso attraverso una piccola raccolta fondi che è andata a buon fine, diciamo, e ci ha permesso di acquistare dei piccoli mezzi per girare questa serie. È stata girata con una fotocamera digitale, una Canon 600D, un microfono fissato sulla telecamera, luce artigianale, insomma, diciamo pochi mezzi però sufficienti per il nostro obiettivo, insomma. Allora, come è strutturato? Quante saranno le puntate o è ancora in divenire? No, allora, oggi debutta su YouTube questa serie e quindi stasera alle 21 sarà visibile la prima puntata, il primo episodio di Eskimo. Sì. E questa prima serie, perché ora ti spiego, è divisa in due stagioni. Okay. Questa prima serie comprende 7 puntate. Sì. Da circa 8-10 minuti l'una, e a cadenza settimanale, quindi oggi ci sarà la prima e ogni settimana verrà pubblicata una puntata. E questa prima serie è ambientata tra febbraio e marzo 77, quindi va diciamo a livello storico-politico dalla cacciata di Lama alla presa di coscienza del movimento fino ai giorni che seguono la morte di Francesco Lorusso e la manifestazione nazionale avvenuta a Roma. Sì. Mentre invece abbiamo in previsione di girare una seconda serie di altre 7 puntate, che però a questo punto, diciamo, verrà pubblicata più in là, in cui andiamo invece da maggio 77 fino a maggio 78, quindi per capirci, da Giorgiana Masi fino al rapimento e la morte di Aldo Moro e così via. Senti, rispetto allo spettacolo, che lavoro avete fatto sulla scrittura e anche poi sulla idea di messa in scena? Ok, allora, lo spettacolo era tutto ambientato all'interno del comitato dove questi giovani amici militano, e mentre adesso abbiamo avuto la possibilità, diciamo, di far vedere anche altre cose, cioè ad esempio ci sono i fascisti, ci sono i genitori dei protagonisti, ci sono altri personaggi che frequentano il comitato, quindi abbiamo avuto la possibilità di ampliare un pochino la trama e anche di diversificarla, diciamo, perché non lo so, è nata comunque un po' diversamente poi da come era la trama, diciamo, si svilupperà in maniera diversa, però non ti voglio dire troppo perché sennò togliamo la sorpresa. Certo, e quindi comunque avete allargato anche il numero di persone coinvolte, dagli attori che hanno realizzato Revolution, avete coinvolto altri attori? Sì, molti. Revolution eravamo soltanto 9 e presenti tutti quanti nella serie Eskimo, però ovviamente ci sono molti altri personaggi nuovi e quindi sì, gli attori sono molti di più. E quello che volevo dirti è che sicuramente è come lo spettacolo che inizia comico e poi piano piano, man mano che l'atmosfera diventa più tesa, assume dei risvolti drammatici, anche qui è così. Quindi nelle prime puntate abbiamo puntato la parte più creativa, sull'ironia del linguaggio degli indiani metropolitani, sì, e su questo, sul fatto che era un movimento molto colorato, la collettività, eccetera. Poi mano a mano che le puntate vanno avanti e quindi che la trama si sviluppa, ovviamente anche per i personaggi all'interno del comitato, diciamo, l'area si fa un po' più tesa e diciamo la trama assume dei risvolti sempre più drammatici. Però dobbiamo aspettare, diciamo, le ultime puntate, ecco. Senti, Ilari, per quanto riguarda la scrittura e la regia, sempre Emiliano? Allora, la scrittura Emiliano, la regia io. Questa volta c'è questa novità. Sì, perché diciamo che la cinematografara del gruppo sono io, in questo caso. Perché vabbè, mi sto laureando al DAMS in regia di cinema e sono l'unica che ha frequentato dei set cinematografici come segretaria di edizione, ho fatto insomma un po' di esperienze e non mi ritengo una regista, diciamo che questa è tra virgolette la mia opera prima, se si può dire, anche se vale certo, per il web, certo. Però ecco, quello che devo dire è che è stato un lavoro molto di gruppo, nel senso che non abbiamo avuto una troupe, cioè la troupe eravamo noi, cioè gli attori che giravano, che si alternavano, chi faceva il ciak, chi metteva la luce, quindi il ringraziamento va veramente a tutto il gruppo. Anzi, se posso dire i nomi degli attori principali, certo, me lo concedi? Vai. Allora, Emiliano Luccisano, quindi sceneggiatore e attore, Claudio Cappotto, Simone Corda, Marco Landola, Lele Guzzardi, Alessia Paladino, Beatrice Conti, Eugenio Tiberi e molti altri bravissimi. E molti altri. Che non diciamo adesso perché non possiamo, per via, immagino, del tempo. Senti, Ilari, come riferimenti invece iconografici, proprio di linguaggio cinematografico, avete avuto dei modelli di riferimento? Ma guarda, diciamo che no, nel senso a gusto personale, okay, a gusto un po' del gruppo. Ci saranno delle novità simpatiche, nel senso ci sarà una protagonista femminile nuova, di cui non posso fare il nome, che però sicuramente diciamo che attrarrà moltissimo l'attenzione e la simpatia del pubblico. E questa è un po' la novità proprio della serie rispetto allo spettacolo teatrale. Però diciamo non direi che mi possa essere ispirata a nessuno perché non mi sento all'altezza, quindi sì, così. Senti, Ilari, il titolo Eskimo chiaramente è un riferimento simbolico a quel movimento del 77. Esatto, Eskimo, abbiamo scelto questo nome perché insomma, oltre ad essere la giacca indossata un po' da tutti i militanti di sinistra extraparlamentare già dal 68, è diventato poi un po' il simbolo della contestazione, della protesta, del rifiuto della società di quell'epoca, e quindi ci piaceva dare questa immagine, questo simbolo come titolo. In chiusura diamo i riferimenti web a questo punto. Allora, a questo punto io ti direi che verrà pubblicata su YouTube, sì, sul canale di Compagnia Controcorrente, però credo che anche cliccando Eskimo la serie sarà facilmente trovabile. Comunque c'è anche la pagina di Facebook che si chiama proprio Eskimo la serie. Sì. E poi il nostro sito www.compagniacontrocorrente.com. Benissimo. Allora ricordiamo che oggi, stasera alle 21, mettete in onda la prima puntata e poi ogni settimana ci sarà la nuova. Esatto, perfetto. Per 7 puntate complessive. 7 puntate, esatto. Bene, bene. Beh, sono molto curioso. Lo so, noi siamo molto emozionati, devo dire. Quindi sono contenta che sei curioso e spero che insomma le persone apprezzeranno il lavoro che c'è stato, anche perché insomma abbiamo affrontato questa nuova esperienza col cuore, con tanta forza di volontà, perché è stato un impegno comunque difficile, però diciamo noi siamo molto contenti, quindi speriamo insomma di avere, come dire, consensi. Bene, allora ci sarà modo sicuramente di riparlarne di questo progetto. Nel frattempo un abbraccio a tutti voi della compagnia Controcorrente, Ilari. Un abbraccio a te Federico e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ah, volevo dire scusa una cosa al volo. Sì, vai. Che noi ringraziamo Radio Onda Rossa non soltanto per la tua trasmissione che ci segue sempre eccetera, ma anche per il fatto che abbiamo ricevuto il materiale di repertorio perché insomma all'interno delle puntate quando c'erano diciamo manifestazioni o eventi importanti non abbiamo potuto girare scene di massa ovviamente. Sì. E quindi mandiamo le immagini di repertorio che sono state fornite gentilmente da Radio Onda Rossa. Benissimo. Allora un'altra cosa che ci unisce ancora di più. Esatto. Un abbraccio, a presto Ilaria. Anche a te, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ilaria Artemisia Rossi sulla serie web Eskimo online da questa sera alle 21, oggi giovedì 30 gennaio. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Proseguiamo con gli ospiti di questa puntata. In collegamento con Stefano Migliore, coregista del documentario Muro Basso, Se la decrescita è anche uno spazio, che sarà presentato in anteprima nazionale al Cinema Massimo a Torino il 2 febbraio. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti gli amici di Radio Onda Rossa. Un lavoro importante perché si parla di beni sottratti alla criminalità organizzata e restituiti alla collettività, giusto? Beh certo, poi tra l'altro un'eccellenza italiana che sta espatriando anche verso l'Europa perché come ben sappiamo le mafie dall'Italia hanno affari che spesso sconfinano, vanno oltre i confini dell'Italia stessa e quindi è questa un'eccellenza, un modello che l'Italia propone per prima in avanguardia mettendo a disposizione della collettività questi spazi ed è questa ci è sembrato il punto fondamentale, il riutilizzo, il ripensare l'utilizzo di uno spazio che da privato, da negato e da illegale diventa invece luogo di formazione, luogo di incontro e di possibilità per la comunità. Stefano, come parte il tutto? Nasce tutto da una ricerca che parte dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna, dove lavora invece il mio collega e coregista Enrico Masi, da questo progetto legato all'educazione alla cittadinanza, da cui è nato anche un sito e del quale Caucaso si è occupato invece per quello che riguarda la produzione di materiali multimediali per la didattica, come ci era già successo con Giussano nel 2010, cioè quindi partendo da un'idea di ricerca, ci siamo resi conto che il materiale aveva una grossa possibilità di crescita e di gestione da parte di un gruppo come il nostro, che è un gruppo di autori, di poter sbocciare, di avere e quindi di dar loro una forma più ampia, più larga per una fruizione, oltre che per la didattica, anche per il mondo del cinema. E quindi il progetto, l'idea è partita da questo incontro, da questa sinergia. Se non sbaglio, con te c'è anche Enrico Masi. Esatto, è qui di fianco a me. Allora sentiamo un attimo anche lui. Certo. Pronto? Enrico, ciao. Ciao Roma. Come va? Tutto bene, tutto bene. Senti Enrico, io volevo chiederti intanto come è strutturato questo lavoro. Ma guarda, abbiamo affrontato sempre per la seconda volta il dopo The Golden Temple, il lungometraggio, però questa volta siamo stati anche un po' dentro quelli che sono i canoni televisivi, pensando appunto a una diffusione anche internazionale, però questo film deve andare sulla, non so se la televisione è ancora il canale più visto del mondo, cioè in Italia, però deve essere visto da tutti. Il film ha un prologo molto molto, molto complesso dal mio punto di vista, che mi permette di entrare in una dinamica che è quella mafiosa, che è stata vista e rivista dal cinema, dalla televisione, dalla letteratura, in molti modi. Quindi per noi è stata una grande sfida affrontarla, e abbiamo creato appunto una struttura che io chiamo fiabesca, cioè proprio sfumata, utilizzando anche qualcosa di dalle Techerai, quindi spero di essere riuscito, adesso appunto lo presentiamo domenica, siamo proprio nei giorni, sono arrivate pochissime critiche, pochissime recensioni ancora, perché il film è in completa anteprima, e tra l'altro abbiamo anche fatto questa scelta di non uscire, scelta consapevole, di non uscire in un festival, quindi ma uscire comunque in un luogo istituzionale importante così, diciamo un po' a sorpresa, per non diciamo sottolineare la mondanità del cinema, ma veramente questa volta questo film Caucaso è uno strumento politico, è un oggetto di comunicazione politica. Enrico, quali luoghi avete visitato e poi avete realizzato anche interviste? Sì, parte in Piemonte, nel Monferrato, e poi c'è Parma e il Salento. Questi sono i tre spazi proprio dei beni confiscati. Poi siamo stati anche a Firenze alla Giornata della Memoria e dell'Impegno, dove c'è un grande intervento di Luigi Ciotti, e poi appunto ci sono questi materiali della RAI che vengono in parte dalla Sicilia, in parte dalla Sardegna. C'è una bella partecipazione, è stata anche lì una bella collaborazione con Rai Teche, quindi diciamo che c'è tutta Italia, lo chiamiamo anche viaggio questo film Muro Basso. Oh, il titolo, perché si parla anche di decrescita? E questa è la sfida proprio che lanciamo noi come Caucaso, perché ci sono tre grandi cuori culturali del film, che uno appunto è il nostro, l'altro è quello della formazione delle scienze dell'educazione dell'università, e l'altro è quello proprio politico di Libera, e tutte e tre queste anime cercano di parlare, insomma un'operazione complessa. La decrescita l'abbiamo lanciata noi, quindi abbiamo per la prima volta, ci pare, associato il concetto di decrescita a quello di spazio, cioè per noi appunto un luogo che ritorna appunto utilizzabile è decrescita, e questo ci sembra, al di là di Libera, al di là di tutto, ci sembra una rivoluzione possibile, cioè utilizzare tutto quello che in Italia già esiste, non quello che deve essere ancora costruito con finanziamenti, con grandi investimenti. Io mi rendo conto del livello utopico, distopico, dell'ambizione, però io non credo che possiamo poi anche sempre autoneutralizzarsi o far finta che gli anni 70 sono già passati, non ci sono più, Pasolini non c'è più, Mattei non c'è più, insomma qualche piccola responsabilità, qualche piccolo coraggio bisogna prenderlo. Oh, una cosa che mi viene in mente pensando ai beni sottratti alla criminalità organizzata, restituiti alla collettività, è che per alcuni di essi ci sono poi la criminalità si vendica, per cui alcuni vengono danneggiati, minacce eccetera eccetera, in altri casi molti non vengono riassegnati per vari motivi, tra cui insomma le difficoltà ad accedervi o l'ignoranza in tal senso. È presente questa realtà, vero? Certo, in Salento noi siamo arrivati poche ore dopo, pochi giorni dopo il grande incendio di questo esperimento molto molto bello gestito da Arci, gestito da Libera Terra Puglia, che aveva piantato questo grano, grano Senatore Cappelli si chiama, molto un grano pregiato, e avevano appena bruciato tutto il a pochi giorni dalla raccolta avevano bruciato il campo, quindi insomma sono cose che sono successe continuano a succedere, e questi ragazzi e anche i gestori politici hanno delle pressioni, delle tensioni psicologiche incredibili. Noi appunto anche ci siamo approcciati molto, molto timidamente, perché questa è una militanza di fatto molto, molto difficile, anche pericolosa, quindi insomma tante persone parlano di libera un po' così, diventa quasi un discorso da bar, ma stiamo parlando di vero attivismo politico, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue criticità. Non è il paradiso contro l'inferno, cioè, certo. Siamo un paese molto, molto complesso. Sì. E poi l'altro punto era la difficoltà, probabilmente, ad accedere a questi luoghi. Certo. Per quanto riguarda le magari burocraticamente, tu dici anche burocraticamente, ma anche per le strutture dal basso, insomma, che si muovono, si auto-organizzano e cercano di averli in gestione. Certo, ma guarda, io positivamente mi viene da dire che esiste una tensione. Per esempio in Piemonte sono veramente organizzati alla francese, non so come dire, sono veramente capaci di prendere in mano la situazione e di sistemare, di bypassare anche quegli iter borbonici, invece, incredibili che ci sono certe volte. Però in generale, cioè in tutto il paese, c'è una buona energia su questo, ci si sta riuscendo. Poi si stava discutendo in Senato in questi giorni di questa parola consapevolmente da mettere o non mettere, c'è stata una battaglia, cioè libera e attiva. È attiva sempre a livelli molto bassi e molto alti, quindi questa volta abbiamo veramente in mano uno strumento difficile. Io sono molto contento dal mio punto di vista, io mi occupo anche di altro, appunto sto facendo un film, sono stato in Brasile, ci sono tanti temi che stanno avvenendo, ma dal mio punto di vista, dal nostro anche di Caucaso, è che il cinema fornisce uno strumento di discussione. Certo. Non solo un documentario, diciamo così, televisivo, così oggetto di consumo, ma un oggetto più di poesia, cioè un soggetto cinematografico che ha una sua opinione, che ha una sua dialettica, che poi dopo è per tutti, cioè serve semplicemente per lanciare è la scintilla, non so come dire. Sì. Ecco. Enrico, in chiusura parliamo anche un po' dell'esperienza a questo punto di Caucaso e dei riferimenti per saperne di più su un eventuale calendario di proiezioni di Muro Basso. Certo, no, beh, Caucaso festeggia i 10 anni, proprio, infatti quest'anno sarà tutta una serie di eventi piccoli e grandi che lanceremo un po' in tutta Italia, poi una grande esposizione che dovremo tenere in Spagna a fine autunno, entro l'anno, così, e questa piano piano la prepariamo. Con Roma siamo in contatto con la Cineteca Nazionale per portare il film il più presto possibile, insomma con una grande anteprima, speriamo ad aprile, insomma questi tempi qui. Poi ci sarà la proiezione qui a Bologna, la inaugurazione della rassegna Sala Doc il 7 di marzo al Cinema Odeon qui in centro, una data importante, appunto l'anteprima è questa del 2 di febbraio. Il gruppo ormai è compatto, nel senso noi siamo a tutti gli effetti, da collettivo stiamo andando verso la casa di produzione e insieme anche con questa ottica del centro studi, cioè noi abbiamo anche dei tirocinanti, piano piano lo studio è sempre più stabile, quindi noi ci poniamo come realtà di produzione in crescita, solo cercando di concentrarci su dei progetti tutti di documentario, di antropologia visuale, insomma su temi, diciamo, dell'oggi. Io adesso appunto sono stato in Brasile per cominciare quello che è il dopo Golden, cioè il film delle Olimpiadi di Londra diventerà, vado avanti, cioè in Brasile sta succedendo la stessa cosa, sta succedendo una catastrofe, adesso tra poco ci sarà il Carnevale dove sono previste grandi manifestazioni, poi la Coppa del Mondo, noi siamo già in produzione con questo nuovo film, quindi sì, noi avremo modo anche di riparlarne. Certo, ti ringrazio tutti per l'attenzione, appunto se ci sono anche delle discussioni, noi abbiamo anche un sito dove è possibile insomma scoprire di più anche tutti i materiali teoretici, stiamo cercando di farlo al meglio. Io mi rendo conto che in Italia è un tema veramente veramente spinoso e c'è tanta gente che ci lavora, quindi non vogliamo assolutamente pestare i piedi a gente che sono 40 anni che si occupa di mafia, così vogliamo partecipare, non Ecco. Bene Enrico, allora io ricordo l'appuntamento, l'anteprima nazionale di Muro Basso, Se la decrescita è anche uno spazio, al Cinema Massimo a Torino per il 2 febbraio. Enrico Masi e Stefano Migliore, registi di questo documentario, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti, a tutte. Ciao ciao. Buongiorno. Visionare il cinema su Onda Rossa, Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. E ritroviamo Enzo Rizzo, regista del documentario Nomuos Film, che sarà presentato al Cinema America Occupato qui a Roma il 31 gennaio e 1 febbraio. Enzo, ben ritrovato. Ciao a tutte e a tutti. Ne avevamo parlato con te di questo lavoro nel giugno scorso, perché credo fosse da poco realizzato. Ora sta in tour, ho visto anche l'indirizzo mail con cui pubblicizzate queste vostre escursioni in giro per l'Italia. Si chiama Nomuos Film Tour 2014. Allora, c'è l'appuntamento romano. Intanto mi dicevi che rispetto al lavoro originario c'è anche, avete aggiunto delle cose. Sì, sì, nella natura proprio del progetto della Nomuos Film, che era quello di seguire il movimento Nomuos e essere a servizio diciamo del movimento mentre il movimento c'è, abbiamo aggiornato producendo un video di 4 minuti le vicende che hanno riguardato il movimento Nomuos dal momento in cui finisce il Nomuos Film che abbiamo presentato a giugno, cioè poco prima. Le ultime immagini del film si riferiscono alle tensioni davanti alla base dell'8 maggio, e da quel momento in poi fino all'agosto sono successe delle cose che hanno anche cambiato l'ordine degli elementi politici per l'installazione della base Nomuos di Niscemi. Cioè il governatore Crocetta, che fino a quel momento si era proclamato paladino Nomuos e aveva in effetti emanato una revoca delle autorizzazioni che quindi di fatto bloccava i lavori in maniera legittima da parte degli americani, a un certo punto inspiegabilmente sotto pressione, pensiamo, sia del governo Letta che degli americani stessi attraverso l'ambasciata e il consolato, che più volte è andata direttamente a Niscemi a fare le proprie pressioni, il governatore Crocetta il 27 di luglio revoca la sua revoca, quindi di fatto riautorizzando gli americani a poter concludere i lavori. Il movimento, in maniera secondo me straordinariamente pronta, riesce a indire una manifestazione per l'8 agosto, quindi in un periodo assolutamente poco indicato per l'iniziativa politica, e circa 3.000 persone invadono la Sughereta con un corteo partecipato di famiglie, di militanti e di attivisti, ma con una buona partecipazione popolare, e rispondono con questa manifestazione in sostegno a 8 attivisti che si erano già introdotti nella base e si erano arrampicati sull'antenna NRTF della base stessa. Il 9 agosto, sì, che c'è questa manifestazione, centinaia di persone invadono la base. Dopo gli riscontri con la polizia riescono a aprire le reti e invadere la base e portare giù i compagni che erano sulle antenne. Questo è quello che noi raccontiamo. Le raccontiamo nel video. Senti Enzo, per chi ci ascolta, anche se la radio ne ha parlato più volte, cosa rappresenta, cos'è il Muos e cosa rappresenta e perché insomma si è creato questa opposizione di base? Il Muos è una base satellitare americana, ne esistono 4 nel mondo, di esclusiva pertinenza della Marina Militare Americana, quindi non NATO, dentro l'Alleanza Atlantica, ma di esclusiva pertinenza degli americani, e ne esiste uno nelle Hawaii, uno in Virginia e uno nell'Australia, tutte in zone desertiche, tranne il quarto italiano, collocato per l'appunto nel centro del Mediterraneo, che è invece a pochi chilometri, a circa 2 chilometri dal centro abitato, dentro una sughereta che è una riserva protetta, la più grande sughereta d'Europa, quindi patrimonio dell'UNESCO. Dentro la sughereta ci hanno costruito questa base. Il MUOS è un sistema satellitare che serve fondamentalmente a controllare i droni, cioè a gestire il prossimo scenario di guerra. E per fare questo hanno bisogno di queste parabole di un diametro di circa 20 metri e ogni base ne ha 3, e queste sono state installate proprio qualche giorno fa. È stata finita l'installazione il 27 di gennaio, il 27 di gennaio. Il 1 marzo il movimento ha indetto un'altra giornata di mobilitazione, di manifestazione, quindi succederanno delle cose anche il 1 marzo, ed è in questo percorso che noi abbiamo aperto il nuovo Nomus Film Tour per dare il nostro contributo come possiamo, perché certo, ci sia della visibilità in uno dei movimenti che pensiamo più avanti in Italia, proprio per l'altezza della questione politica che pone. Certo. Opporsi alla base Nomus a Niscemi, al di là delle questioni territoriali, vuol dire opporsi alla guerra. Sì, se attraverso la nostra azione possiamo sostenere un movimento contro la guerra, è quello che pensiamo sia giusto fare. Certo. Senti Enzo, l'iniziativa qui a Roma al Cinema America Occupato è una 2 giorni piuttosto articolata, non ci sarà solo il vostro documentario, vero? No, proprio per lo spirito di cui ho parlato fino a questo momento abbiamo cercato di mettere insieme tutte le energie possibili che possono spendersi, e l'occasione che Antonio Mazzeo, giornalista che da anni si occupa della questione, animatore dei comitati No Muos in Sicilia, ha pubblicato un libro che si chiama Il Muostro di Niscemi e che spiega con una narrativa anche piuttosto gradevole come è avvenuta tutta la vicenda, comprese le implicazioni legali e illegali di ditte mafiose che lavorano dentro la base e quant'altro. E lo presenteremo nella Gina Tempo della rete New World. Abbiamo l'onore di avere venerdì il 2 febbraio, per dire il 1 gennaio, il domenica 2 febbraio, di avere anche Matilde Politi, che farà la cantata Non Muos in perfetto stile cantastoria, con tanto di cartellone dipinto a mano e e chitarra a tracolla. E poi abbiamo un altro onore, che verrà a partecipare alla serata, Cecilia Mangini. Ah, l'abbiamo sentita giovedì scorso in trasmissione, pensa, per il suo documentale. Cecilia Mangini, che è una Non Muos legata. Senti Enzo, in chiusura diamo anche i riferimenti internet per chi volesse sostenervi. Sì, c'è il sito www.nomuosfilm.it, in cui si possono trovare tutte le informazioni, anche il film completo che noi abbiamo già caricato su YouTube, quindi chiunque volesse proiettarlo per dare informazione o per informare se stesso sulla questione lo può fare direttamente su YouTube, scrivendo Non Muos Film completo, e lo trova anche con i sottotitoli in inglese. Poi sulle pagine Facebook l'evento Non Muos Film al Cinema America Occupato. Un'altra cosa volevo dirvi, che domani mattina a mezzogiorno saremo con Matilde Politi a Lettere, sì, sulla Scala di Lettere, per fare un'iniziativa di agitazione e propaganda, si diceva una volta. A che ora? Intorno a mezzogiorno. Benissimo, allora a risentirci presto Enzo, un abbraccio e continuate così. grazie ciao. A voi, ciao. Enzo Rizzo, regista del documentario No Muos Film al Cinema America Occupato qui a Roma, 31 gennaio e 1 febbraio. Maurizio Di Rienzo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Con te per parlare della serata sui nastri d'argento dedicate ai documentari al Teatro Ambra La Garbatella qui a Roma, domani 31 gennaio 20:30 se non sbaglio. Sì, una premiazione che dovrebbe essere informale e sbrigativa pur nella sua assoluta solennità e sarà preceduta da una breve chiacchierata tipo tempo di calcio, un 40-45 minuti con produttori, registi, distributori, così, non sullo stato di salute del documentario italiano, ma sull'annata, così, una chiacchierata libera, giusto per riconoscersi e parlare. Dopodiché premiazione e poi la proiezione di due brevi filmati legati al concetto dell'arte in carcere. Mi spiego meglio. Giovanna Taviani ha realizzato un 25 minuti di ritratto su Salvatore Striano, uno dei protagonisti di Cesare deve morire, che adesso non è più a Rebibbia detenuto, ma è un attore e un cittadino libero. E poi il work in progress di Francesco Cinquemani, sempre ambientato a Rebibbia, ma che esula dal film Cesare deve morire e segue comunque l'attività teatrale e la vita di altri detenuti che pure fanno parte di questo gruppo teatrale messo in campo da molto tempo. Oh, come mai questa scelta molto interessante di cinema e carcere legata alla serata Nastri Doc? Ah beh, questa è capitata perché sono due inediti brevi, uno è un work in progress, quindi è una sorta d'assaggio che sarà visto in altra maniera all'Noir in Festival Courmayeur a dicembre, l'altro è un inedito assolutamente per Roma, è una sorta di, come dire, scia, nel senso che l'anno scorso il nastro dell'anno al fin dell'anno andò giustamente nel 2012, scusate, 2012 andò ai fratelli Taviani e poi comunque evidentemente erano due lavori, come dire, extra menia, va, per fare una battuta. Senti, quindi, intanto già di certo c'è un premio speciale che verrà assegnato domani sera, vero? Sì, un nastro speciale. Poi oggi c'è la comunicazione, posso dirlo perché è il comunicato in rete da un paio di ore, di alcune menzioni speciali, perché i documentari presi in esame secondo il regolamento, qui lo voglio dire, sono 40 quest'anno, 9 mesi, noi siamo tornati all'annualità dopo aver fatto una premiazione l'anno scorso ad aprile che riguardava 12 mesi fino a fine marzo, invece stavolta siamo partiti dal 1 aprile al 31 dicembre tenendo conto dei documentari passati per un 16-17 grandissimi festival, compreso italiani, si intende, Cannes, Berlino, Locarno, Nyon, Paris, eccetera, e altri italiani, e che poi siano usciti in qualche modo in questa sorta di circuitazione parcellata e macchia di leopardo che c'è per molti documentari, finalmente per molto cinema documentario, che hanno una strada lunga e non solo una prima visione al volo e poi ciao, e poche siano usciti addirittura in DVD direttamente, per cui ci sono dei requisiti di visibilità e quindi sono 40, e quindi di questi 40 evidentemente è chiaro che restringendo per dare spazio anche a lavori oltre la cinquina finalista tradizionale dello schema dei Nastri d'Argento, si è giustamente pensato anche per motivi proprio contenutistico-giornalistici oltre che critici di segnalare alcune cose. Comunque cominciamo con il fuoriquota, perché lo puoi ben capire che era un fuoriquota quest'anno, Sacro Graal di Gianfranco Rosi, era impossibile non considerarlo e nello stesso tempo anche logico, dopo il Leone d'Oro a Venezia, non metterlo insieme ad altri pur forti, importanti, anche di autori importanti, film. Quindi è un nastro speciale come fosse il documentario dell'anno, sì, un po', sì, sì. Così. E poi c'è una cinquina, che se vuoi dico. E diciamola. Fuori scena, che era il Festival di Roma, ho sbagliato, Fuori strada, vedi? Fuori sono andato fuori strada io. Fuori strada di Elisa Moruso, poi avevamo L'amministratore di Vincenzo Marra, sì. Per altri occhi di Silvio Soldini e Giorgio Garini, Summer 82, When Zappa Came to Sicily di Salvo Cuccia e Wolf di Claudio Giovannesi, il cui argomento poi l'ultimo degli ingiusti c'entra con questi giorni, guarda caso. E poi ci sono delle menzioni che vengono date oggi, in particolare a Dal Profondo di Valentina Pedicini, che vinse con la sceneggiatura il Premio Salinas 2 anni fa e che ha vinto Prospettive Doc Italia al Festival di Roma, è l'ultima donna minatrice in Sardegna, un argomento, c'è, cioè un tema molto interessante. Poi Lettera al Presidente, sempre qui l'attualità di Marco Santarelli, perché la storia della nostra democrazia attraverso lettere sgangherate, altisonanti o semplicemente di richiesta di qualcosa mandate dai comuni cittadini ai vari presidenti della Repubblica, ed è tutto in filigrana con immagini d'archivio, ed è un documentario davvero molto giornalistico e interessante. E questi, e poi c'è questo fuoriscena che riguarda la Scuola della Scala, danza, lirica, scena e costumi, è un aspetto della nostra cultura che diventa internazionale perché vengono tutto il mondo a studiare, sì, ed sì. È fuoriscena di Donati e Leone, è veramente un bel lavoro. E poi ci sono i documentari sul cinema. Beh, quindi, Maurizio, in parte già lo hai fatto, esatto, prima, però volevo chiederti a questo punto, visto che parliamo della serata di premiazione, sì, Nastri d'Argento, un bilancio dell'anno documentaristico italiano. Volentieri, questi sono 9 mesi, come se avessero partorito, sì, qualcosa, sì, però credo che si possa pensare, innanzitutto cercando di capire il documentario quando entra nell'anno, perché un conto è produrlo, un conto è girarlo, poi esce a un festival, poi esce dopo, insomma, diciamo il 2013, è stato caratterizzato dal Leone d'Oro di Rosi, è stato caratterizzato dal premio il Marco Aurelio al Festival di Roma di Tir, che non è un documentario perché è un attore a condurre quel Tir per gran parte dell'Europa, ma fondamentalmente nasce da una idea documentaristica, e poi ci sono stati altri esempi di documentari importanti che stanno anche viaggiando per molti festival stranieri, questo è sottovalutato, non è detto, non è scritto, ma il documentario italiano comincia in buon numero e in eterogeneità a essere selezionato dopo un'uscita a questi festival che ho detto, compresi quelli Locarno, Berlino eccetera, a uscire in altri festival. Si può concludere dicendo che sì, è vero, c'è una maggiore attenzione, ci sta dietro un lavoro capillare svolto da distribuzioni ed esercenti coerenti e, si può dire, coraggiosi e anche lungimiranti, e evidentemente i pubblici ci sono per questo, e quando si va in provincia, paradossalmente per provincia intendo anche cittadini di 200-300 mila abitanti, oltre che 50 mila, insomma, ecco, ci si rende conto che c'è una voglia da parte di una parte di questi abitanti di vedere cose che altrimenti non vedrebbero mai, o che vanno alle 2 di notte qualche volta su qualche canale televisivo eccetera, eccetera. Quindi è un bilancio molto positivo, ma dovrebbe sbloccarsi qualcosa a livello appunto broadcasting, perché in tutta Europa, in tutto il mondo ci sono televisioni, Stato anche private, che seguono molto questa situazione. Sky latita, la Rai coproduce ma poi non manda in onda se non raramente, e la 7 ogni tanto sponsorizza qualche documentario per giocarci sopra una sorta di serata evento su un fatto di cronaca, ma fa bene, almeno lo fa, e quindi c'è davvero un punto interrogativo sotto questo aspetto, perché insomma i soldi non sono eterni se poi non c'è un ritorno. Sì. Bene, ricordiamo allora la serata di domani, venerdì 31 gennaio, premiazione per quanto riguarda i documentari Nastri d'Argento dedicati ai documentari. Sì. Maurizio, dalle 20:30, prima discussione e poi premiazione. Chiacchierata. Sì, chiacchierata. Vogliamo basso. e poi premiazione e poi la proiezione, come hai detto tu, già abbiamo annunciato, di questi due brevi film di Giovanna Taviani e di Francesco Cinque Mani. Questo è organizzato dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che da 10-12 anni ha un occhio di riguardo sempre più strutturato, sempre più attento, fallibile ma sempre più attento nei confronti del documentario e del cortometraggio italiano. Per i cortometraggi se ne parlerà a fine marzo, io in qualche modo servo da come dire, mente organizzatrice, un centrocampista della situazione. Benissimo, t'abbraccio e alla prossima. Grazie a tutti, buone cose, ciao. Ciao Maurizio. Maurizio Di Rienzo. Di nuovo con noi Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso, per parlare della tematica scelta per le proposte di gennaio, ossia migrazioni. Paco, intanto ben ritrovato, dici un po' di cosa si tratta. Sì, anzitutto buongiorno a tutte e tutti e grazie ancora come sempre dell'ospitalità. E niente, noi adesso con Distribuzioni Dal Basso, insomma, con gennaio abbiamo lanciato le proposte del mese e abbiamo iniziato anche a fare un discorso di raggruppamento, insomma, per macro tematiche, e tra i titoli nuovi che abbiamo inserito per questo mese abbiamo due produzioni di Insu TV, che sono appunto Next Stop Lampedusa e Il Tempo delle Arance. E il primo documentario è un documentario che appunto documenta il tema che ahimè conosciamo ben tutti, della situazione appunto che ciclicamente diventa emergenziale dell'isola di Lampedusa e della questione appunto degli sbarchi, ovviamente da un punto di vista critico e vicino a quello che può essere insomma l'analisi che ne facciamo tutti i giorni. E mentre il secondo, Il Tempo delle Arance, arriva a Rosarno e ha documentato, infatti quello è un materiale anche decisamente prezioso, gli avvenimenti che finirono anche appunto sulle cronache nazionali riguardo appunto a ciò che accadde un paio di anni fa a Rosarno, rispetto appunto anche alla rivolta che ci fu dei braccianti migranti che tutti i giorni andavano a raccogliere le arance. E assieme a questi due titoli appunto adesso abbiamo completato o comunque ingrandito tutta una sezione tematica sul tema migrazioni, legandoli anche ai film che abbiamo lanciato nei mesi scorsi, e ci accingiamo in qualche maniera adesso ad andare a febbraio con delle nuove prime visioni che usciranno e che avremo il piacere di raccontarvi il prossimo mese. Per quanto riguarda distribuzioni dal basso, per chi ci ascolta chiaramente, diamo anche dei riferimenti, come nasce e quali sono le caratteristiche di distribuzioni dal basso. Distribuzioni dal basso è un portale online che sta raggiungendo quasi il primo anno di vita, che è nato ad aprile 2013, e il sito è www.distribuzionidalbasso.com ed è un portale fondamentalmente che si occupa di sostenere e aiutare in qualche maniera l'autodistribuzione di opere cinematografiche indipendenti, di registi emergenti o comunque di realtà indipendenti come anche la nostra. E, nel prossimo mese, tra l'altro, siamo lieti di annunciare che inseriremo anche alcuni dei nostri titoli, perché noi siamo contemporaneamente una casa di produzione e stiamo chiudendo alcuni dei documentari che avevamo in cantiere, tra cui Green Lies, che abbiamo avuto anche modo di venire a raccontare durante la campagna di coproduzione giù a Roma. E distribuzione dal basso, la cosa che in qualche maniera cerca di differenziarsi anche da altri progetti editoriali è il fatto che anzitutto sostiene e divulga le opere licenziate in Creative Commons, quindi c'è una precisa politica editoriale sul fronte del copyleft e delle licenze libere. In secondo luogo è tutto strutturato, qualsiasi progetto che voi trovate sul portale, attraverso un preciso meccanismo di donazione, proprio perché la scelta è stata anche quella di non adagiarsi nell'e-commerce standard come lo conosciamo. Quindi sul portale, se andate anche a leggervi un po' quello che è la struttura del sito, capite anche perché abbiamo fatto una serie di scelte e come queste si avvicinano in qualche maniera o sono successive anche a metodi produttivi legati al crowdfunding e alle coproduzioni popolari. Paco, rispetto ai sei titoli del mese dedicato alle migrazioni, tra l'altro tre ne abbiamo già avuti ospiti, degli altri tre ti ho chiesto i riferimenti, quindi prima o poi li sentiremo in trasmissione. E oltre al tema migrazioni, quali sono secondo te le caratteristiche che li potrebbero accomunare in un filone? Quali sono le loro caratteristiche prioritarie? Ma sicuramente il filo conduttore che in generale però racchiude molto spesso, non sempre ma molto spesso, progetti che abbiamo avuto il piacere di mettere nell'archivio, nel database, ovviamente sono sempre comunque focalizzate su storie o a volte di resistenza o comunque legate alla volontà delle persone di provare a costruirsi un futuro diverso da quello che ci viene imposto. E dall'altra parte però anche, ed è questo un aspetto importante che cerchiamo sempre di curare, dare la possibilità non solo a storie che normalmente dal mainstream non vengono raccontate, ma in certi casi, come per esempio questi titoli nuovi che abbiamo inserito, storie che anche nel mainstream sono state affrontate e raccontate, ma ovviamente sotto una chiave di lettura, una lente di lettura completamente diversa. Quindi è importante anche il come racconti le storie, non solo le storie che vai a individuare, secondo me. Certo. Ed è questo un aspetto vitale anche che condiziona positivamente tutta la nostra scelta editoriale di lungo periodo. Ecco. Senti, in chiusura diamo i riferimenti per visionarli? Sì, esatto, potete trovare tutti questi titoli, ma anche appunto l'archivio complessivo su www.distribuzionidalbasso.com, informazione potete contattarci a info@distribuzionedalbasso.com, ma anche e soprattutto, perché appunto fa parte dei principali obiettivi del nostro progetto, se avete voi stessi insomma dei progetti di documentario, ma anche più legati alla fiction eccetera, che volete provare a condividere con noi, c'è un'apposita sezione sul sito che si chiama Proponi il tuo film, e noi insomma siamo a disposizione per visionare il materiale e provare a ragionare insieme sull'inserimento nel nostro catalogo. Paco, io ti abbraccio e ci sentiamo presto. A presto, grazie a voi. Ciao ciao. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso, riguardo alle proposte di gennaio legate alla tematica migrazioni. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Marco Simon Puccioni, regista del film Come il vento, che sarà presentato al Teatro Valle Occupato martedì prossimo 4 febbraio con il regista in sala. Ciao, ciao, ciao a tutti. Come il vento, non ne avevamo parlato con te durante i giorni che precedevano l'uscita in sala. Ci eravamo però scambiati diverse email in cui mi erano arrivate delle critiche preventive rispetto alla figura della protagonista del tuo film, che è una direttrice di carcere italiana. Però poi c'è stato modo di, e sai anche insomma la radio da sempre, da quando è nata, si occupa di carcere, ma dal punto di vista di chi lo subisce. Anche chi ci lavora in qualche maniera lo subisce. Sì, sì, no, infatti. C'è stato modo poi di parlarne con Roberto Silvestri, che ha ospitato il tuo documentario nel suo festival a Sulmona, che tra l'altro il carcere di Sulmona è stato uno di quelli diretti dalla protagonista del tuo film. E poi però ho pensato anche di sentirti in trasmissione, perché come dato principale c'è questa opportunità al Valle Occupato di martedì per vedere il film e parlarne anche con te, e mi sembra un elemento centrale, anche perché poco durante la trasmissione ho sentito Enrico Rizzo, un regista, e mi ha detto una cosa bella, che il cinema deve essere anche elemento di discussione, il che insomma mi sembra proprio appropriato anche per il tuo caso. E poi seguo i tuoi lavori dagli inizi, dai tuoi documentari sui migranti, sulla causa palestinese, sul movimento GLBT, per cui insomma mi sembrava anche che giusto proseguire questo percorso. E soprattutto poi c'è anche l'aspetto del film, che non è un ritratto agiografico ma piuttosto problematico rispetto alla figura che hai deciso di raccontare, giusto Marco? Certo, no, ma infatti diciamo il mio interesse verso la figura di Emida Miserere è un interesse diciamo umano a tutto campo, non è che uno in qualche maniera, parlando di lei, ne vuole celebrare l'istituzione del carcere, che è un'istituzione insomma anche scomoda e non amatissima, per dire, usare un eufemismo, ma al contrario andare a vedere come funziona un carcere anche dal punto di vista di chi ci lavora, in qualche maniera ha una responsabilità di dare un senso a questa istituzione. Quindi come ha detto il collega, cioè è per discutere, per certo, far parlare di questa istituzione. Poi come chi vedrà il film o chi l'ha visto lo sa, insomma è tutto visto tramite la vicenda umana di Emida Miserere, quindi è un documentario, non è un documentario, è ispirato ad una storia vera. Certo, certo. Ecco Marco, anche perché per come l'ho visto io, il film tratta il carcere come istituzione totale, che non solo danneggia e uccide chi lo subisce, ma è un danno anche per chi lo gestisce. Beh, ma infatti ci sono anche delle analisi sociali in cui appunto spesso l'estrazione sociale di chi è dietro le sbarre, di chi sta davanti alle sbarre, è molto simile, cioè sono spesso dei ceti sociali anche svantaggiati, anche perché il lavoro, che appunto impropriamente è detto del secondino, della gente di polizia penitenziaria, ha dietro uno stigma sociale abbastanza pesante, diciamo, non è, tra tutti i ruoli di polizia sicuramente quello considerato meno glorioso, è meno eroico, no? Nel senso, certo, che comunque i poliziotti che acchiappano magari il criminale hanno dietro un alone di eroismo, chi poi ha l'incarico invece di sorvegliare quello stesso criminale dietro una sbarra con tutti i problemi che comporta, non vengono visti quasi mai in luce positiva, anzi quasi tutti i film del carcere, a tutta ragione appunto, parlano del carcere dal punto di vista di chi è dentro, che può essere finito in modo ingiusto oppure essere un pericoloso criminale, ma comunque il racconto è sempre spesso fatto da quel punto di vista lì, e invece chi lavora lì è di solito un po' dipinto come un aguzzino senza cuore. Allora, secondo me appunto invece interessa andare più a fondo e scoprire quali sono le realtà di un'istituzione comunque importante e un po' poco conosciuta come il carcere, volevo indagare meglio in quello che è quel mondo, e quindi questo, ma poi soprattutto il fatto che Armida Miserere era una donna, quindi una donna all'interno di questo tipo di istituzione, che per me era, quando ho conosciuto la storia di Armida, era anche un fatto un po' nuovo, cioè non sapevo che le donne dirigevano carceri di massima sicurezza così, e effettivamente Armida è stata una delle prime. Quindi è anche una che si è scontrata contro una mentalità maschilista, militare, perché all'epoca il corpo era ancora militarizzato, quindi era interessante secondo me vedere come una donna, che poi appunto è anche una donna che è una di sinistra comunista, almeno di famiglia comunista, e lei stessa di sinistra, è andata a scontrarsi con questa istituzione, con tutto quello che poi ha significato per lei e per la sua vita. Marco, una curiosità, visto che insomma il film è stato presentato e ha partecipato al Sulmona Film Festival, e Roberto Silvestri è un critico insomma che stimo e con quale abbiamo parlato anche proprio del tuo film durante uno dei suoi interventi, proprio per lanciare il festival, e anche dato il fatto che Sulmona è sede di uno dei carceri che è stato diretto dalla tua protagonista, e volevo chiederti anche che momento, com'è stato il momento di dibattito sul film in quella circostanza. Beh, lì è stata una proiezione molto molto calda, perché ovviamente la città si ricordava bene di lei, perché il carcere è ovviamente una delle istituzioni più importanti della città, quindi ci sono state due, credo, proiezioni, tutto esaurito per il film. Evidentemente la storia era molto molto sentita, c'erano diverse persone che l'avevano conosciuta, e quindi erano anche molto emozionati, c'era anche appunto la gente che aveva trovato il corpo la mattina dopo il suicidio, quindi c'era una forte emotività intorno alla proiezione, intorno al film. Chiaro che poi le persone che la conoscevano non è che hanno anche difficoltà a guardare al film solo come un film, no? Perché è una cosa che gli fa rivenire a galla delle emozioni di un vissuto. Naturalmente io ho fatto un film che non è solo per loro, ma è un film per tutti, cioè quindi anche per chi come me d'altronde non aveva mai conosciuto l'Armida Miserere, che si è fatto anche una cultura sul carcere preparando il film. Quindi diciamo quella era un'occasione molto particolare, anche perché poi lei ha compiuto il suicidio durante la processione del Venerdì Santo, da atea così ha legato un po' la sua esperienza al simbolo della passione, e quindi c'era un ulteriore riferimento che per Sulmona era molto importante, questa processione del Venerdì Santo. Insomma, c'erano diversi elementi, il festival, il richiamo alla processione, il carcere, che hanno reso la proiezione di Sulmona molto bella, molto, molto intensa, sotto diversi punti di vista. Quindi vabbè, comunque ci sarà modo di riparlarne. C'è la proiezione martedì 4 febbraio al Teatro Valle Occupato alle ore 21, ci sarai tu in sala, quindi prima e dopo la proiezione ci sarà anche modo di parlarne. Sì, poi ci sarà probabilmente anche Valeria Golino, che genererà della sua presenza, quindi sarà anche modo per parlare con lei e come lei ha vissuto questo personaggio. Bene. Marco, io ti abbraccio e a risentirci presto. A presto, a martedì. È tutto per l'appuntamento settimanale di Visionari, il giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.9 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Tutti i riferimenti per quanto riguarda la puntata di oggi li trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa, trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 30 gennaio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, proiezioni e rassegne, e poi il link che rimanda alla puntata precedente e all'archivio del 2014 ma anche del 2013. C'è poi la pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo.